Dipende solo da te. Finire come un musicista qualunque che tutti dimenticheranno, o come un maestro di cappella famoso sul quale si continueranno a scrivere dei libri. Dove vuoi andare, eh? In Svizzera? In Olanda? D'estate non c'è un cane e d'inverno si stenta a non morire di fame. Pensi davvero di portare Mademoiselle Weber in Italia come prima donna? Conosci una sola prima donna che abbia riempito i teatri italiani prima di aver mille volte recitato in Germania? Io voglio credere che la signorina Weber canti come una Caterina Gabrielli, abbia una voce potente e il temperamento da prima donna. Ma è ridicolo che tu giuri sulla sua action. Ricordati le manovre puerili di Asse a favore di Miss Davis, e hanno chiuso per sempre le porte dei teatri italiani. Uomini e donne esperti tremano alla loro prima entrata su un palcoscenico straniero. Ci vuole il possesso del teatro, ci vuole tempo, lunghi preparativi. Ogni impresario scoppierebbe da ridere a raccomandargli una ragazzina di 16 anni senza esperienza. La tua idea di fare delle tournée con il signor Weber e, nota bene, due sue figlie, mi rende pazzo. La tua lettera non è che un romanzo. Quello che dite della Weberin è vero. Salvo una cosa. Non canta come la Gabrielli. E non mi piacerebbe se cantasse così. Chiunque l'abbia sentita, la Gabrielli, dice che era soltanto una cantante di passaggi e roulade. Meritava l'ammirazione di tutti, ma mai oltre la quarta volta. Alla lunga non poteva piacere. Ci si stanca presto dei virtuosismi. E lei aveva la sfortuna di non saper cantare. Non era in grado di tenere una sola nota come il fo. Non aveva messa di voce, non sapeva sostenere. In una parola, cantava con arte ma senza alcuna espressione. La signorina Weber invece canta con il cuore e preferisce il cantabile. Le ho fatto scoprire i passaggi di bravura. È necessario li sappia per andare in Italia. Non ha mai cantato come un'allieva, ma come una professora. Io voglio che un'aria stia addosso al cantante, come un abito ben tagliato. Insomma, vorrei che la sentiste, con la sua precisione nel gusto, nel piano, nel forte. Il recitativo e aria Mia speranza adorata, composto nel 1783, fa parte di quel numeroso gruppo di arie da concerto scritte da Mozart per Aloysia Weber, la cui agilità consentiva all'autore di sperimentare arditezze tecniche ed espressive non comuni. Il testo è tratto dalla tragedia Zemira di Gaetano Sertor e l'aria è indicata come rondò.